volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone. Dicono che non capisci il valore di qualcuno fino a quando non l'hai perso. Tu non capiresti lo stesso, quindi non dirlo nemmeno per scherzo. Scusa ma non me ne importa. E sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Aspetto ancora una risposta. E scusa ma non me ne importa. E sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Pensavo a prendermi la colpa. E ti ho detto ti amo. Non eri il regalo che immaginavo. Noi piano piano ci roviniamo. Dammi il mio panico quotidiano. Quando ti vedo con gli altri, tu non sai quanto vorrei essere via. Sei troppo bella per essere vera, ma anche troppo bella per essere mia. E io ho finito l'autonomia per sopportare ogni tua bugia. Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia fingere di essere un bravo attore. E ora che io me ne vada via, scomparirò in un soffio al cuore. E scusa ma non me ne importa. E sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Aspetto ancora una risposta. E scusa ma non me ne importa. E sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Pensavo a prendermi la colpa. Scusa ma non ci riesco. Mi hai lasciato un po' di te. Hai preso tutto il resto. E sono qui stasera ancora un'altra volta. Che c'è la luna piena, ma tu hai la luna storta. Scusa ma non me ne importa. E sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo.